nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Lo so che la voce può sembrare quella di un'altra, ma sono proprio io, Maria Latella, solo che è la voce di una conduttrice con la febbre. E chiedo scusa per la tonalità cavernosa che vi accompagnerà questa domenica. Bentrovati, Nessuna è Perfetta questa domenica, si occupa ancora una volta di lavoro, carriera, da un punto di vista femminile, ma questa volta approfondendo una diciamo chiave più legata a quella che è la comunicazione televisiva e la rappresentazione che talvolta appunto viene data delle donne in TV. Stiamo parlando, l'avete capito, del caso televisivo della settimana, il programma Parliamone Sabato condotto da Paola Perego e chiuso dal vertice RAI perché è considerato inadeguato agli standard del servizio pubblico. Sapete tutti che cosa è accaduto durante la trasmissione. Il tema era il fascino delle donne dell'Est ed è stata diciamo inserita una infografica con l'elencazione delle ragioni per le quali agli uomini italiani converrebbe scegliere una fidanzata dell'Est. Sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo. Sono sempre sexy. Perdonano il tradimento. Sono disposte a far comandare il loro uomo. Sono casalinghe perfette. Non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio. Queste, diciamo, le ragioni dell'infografica. E la RAI, come si è detto, ha deciso di chiudere il programma perché contraddice la missione del servizio pubblico. La conduttrice Paola Perego, in una intervista alle Iene, ha ribadito strano che si siano scusati per il mio programma perché era stato approvato dai vertici della rete e ha aggiunto sono finita in una storia più grande di me, forse ho un marito scomodo. Il marito di Paola Perego è l'agente televisivo Lucio Presta. Perché ci occupiamo di questo? Perché al di là del fatto che il servizio pubblico affronti un tema che con una visione diciamo delle donne ha poco a che fare, ma perché è comunque riferito al nostro universo femminile e a Nessuna è Perfetta. Cerchiamo di guardare sia al lavoro che ai temi di attualità da un'angolazione che è poi quella nostra, quella delle donne. Dunque, io voglio proprio sapere cosa pensa di tutta questa storia il nostro agente provocatore di questa domenica. Dunque, benvenuto a Nessuna è Perfetta, Malcolm Pagani. Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi. Appena arrivato come responsabile delle pagine culturali del Messaggero e era appena arrivato al Messaggero quando ha firmato il suo primo editoriale sul quotidiano diretto da Virman Cusenza, proprio dedicato a questo argomento. Allora, Malcolm, ma ha ragione Aldo Grasso quando dice che Paola Perego non è altro che l'anello debole di una catena e che il vero problema è il clima generale di Rai 1 che forse ha perso la sua vera missione? Ma il problema è l'indignazione a comando, secondo me. Grasso ha spesso ragione parlando di un argomento che conosce a menadito come la televisione, che ha studiato, come dire, da sempre. Però il problema è l'indignazione a comando, il problema sono i riflessi pavloviani per cui la finanza va a Cortina il 25 facendo un'operazione spot per vedere che si combatte l'evasione, quando poi sappiamo quanti evasori legalizzati, per dirlo da Rino Gaetano, ci sono in Italia. Il problema è l'isteria del web che ti costringe a dire tifo per una squadra o tifo per l'altra. Il problema è che il web è diventato il grande bar sport italiano, per cui se non ci si schiera si ha l'impressione o il sospetto di essere rimasti indietro. Se si è, diciamo, inclini al perdono, si è deboli, e via via fino al burrone del non senso, perché poi credo che come un tempo si recensivano libri e film senza leggerli, un po' lo stesso sia accaduto alla trasmissione di Paola Perego. Tuttavia, no? Se si rivedono... è complicato sostenere che sia servizio pubblico un'infografica con quelle, diciamo, indicazioni sulle donne dell'est, no? Difficile no, ma difendere. Quella non, allora, se vogliamo parlare di servizio pubblico, diciamo ci sono, non è l'unica trasmissione, no? In cui ci sono dei contenuti impropri. Il problema è che ricostruire la missione del servizio pubblico è materia complicata, è un po' come inoltrarsi nella recherche di Proust facendo i debiti e i dovuti distinguo, però il problema è che il servizio pubblico non sempre va d'accordo con gli ascolti, con lo share e con i conti. Ma siamo convinti che questo genere di trasmissioni, faccia ascolti? Ho letto che per esempio uno dei problemi di Parliamone Sabato erano anche gli ascolti che non erano così soddisfacenti, quindi forse non è una questione di ascolti. Ma io userei le parole della stessa Perego per dire che mi pare abbia detto, no? Cioè, è stata una mezz'ora, insomma è stata una cosa brutta come tante altre brutte ne passano in televisione. Il punto fondamentale è che, benissimo, la cartellonistica, diciamo la slide, per usare un linguaggio caro all'ex premier, era demenziale, lo possiamo dire, sì, lo era senz'altro, il livello di certe trasmissioni che sono sulla TV di Stato non somiglia a quei programmi culturali che andavano in onda alle 2 di notte su Nettuno, in cui si spiegava magari la fisica quantistica nemmeno la TV divertente di Renzo Arbore. No, ma nemmeno, guarda, vedi Maria, hai colto esattamente il punto. Cioè, il punto fondamentale di tutta la vicenda, secondo me, è il vuoto pneumatico di idee che ammanta la televisione di oggi. Allora, ricordiamo sempre Ugo Porcelli, Renzo Arbore, che peraltro non ha bisogno di essere ricordato perché è ancora più brillante e più attivo e più... Però appunto quello era l'84-85, sono passati 32 anni e stiamo ancora citando come un esempio di divertimento intelligente una trasmissione di 32 anni fa. Citiamo soprattutto perché non c'è veramente un rinnovamento o una vera volontà di sperimentare. Adesso aspettiamo come acqua dal cielo il programma di Virginia Raffaele, no? che intelligente com'è e brava com'è, farà sicuramente un'ora di ottima televisione. Sono pronto a giocarmi un dito se l'attitudine non ti sembra troppo da biscazziere o da scommettitore. Però, visto che parliamo di Renzo Arbore, parliamo di una trasmissione che nessuno pensava avrebbe avuto il benché minimo esito e che toccò, anzi superò il 50% di share, mettendo d'accordo quindi qualità, intelligenza, sperimentazioni, istrionismo, novità, coraggio, e oggi quel tipo di sperimentazione, di rischio, si preferisce non percorrerlo e comprare un format dalle televisioni straniere, perché appunto è più sicuro. Se è andato bene in Messico, in Argentina o in Israele, perché non dovrebbe andare bene da noi? C'è anche l'aspetto che qualcuno più di qualcuno ha sottolineato, è che 30 anni fa non c'erano gli agenti televisivi che decidevano tutto nei palinsesti, e che oggi invece è così, e si è parlato appunto di una guerra tra agenti, i due agenti che fanno la TV italiana. Allora, che Lucio Presta e Beppe Caschetto siano i dominus e lo siano stati in diverse stagioni del palinsesto Rai non è un segreto per nessuno. Però anche lì, senza fare della demagogia, ci sono dei ritorni e dei conti economici alla base. La RAI, per esempio, conti alla mano, avendo questa teoria infinita di assunti, quasi non conviene sostenere i costi di una produzione interna ed è di maggior risparmio appaltare all'esterno. E poi ci sono i nomi che ovviamente sono dietro le ombre di Presta e di Caschetto, che sono i grandi nomi dello spettacolo italiano. Sappiamo benissimo che Caschetto ha un rapporto stretto con Maurizio Crozza, ma non solo, e con tantissimi altri, con le Iene, Paolo Bizzarri Luca Bizzarri e Paolo Questisoglio, eccetera eccetera. E Lucio Presta significa, nelle rare volte in cui si concede, non sono state molte in questi anni, significa ad esempio un nome su tutti, Roberto Benigni. Quindi quando poi queste figure appaiono magicamente sui teleschermi Rai, allora il paese applaude, no? Applaude la critica, applaudono gli ascolti. Però è anche vero che non si è investito in nessuna novità in tutti questi anni. Torniamo a quello che ci... Sono vent'anni che si ripropongono le stesse facce. Sono vent'anni che si ripropongono le stesse cose. Il più brillante di tutti, lasciami dire, Giuseppe Fiorello, è in una nicchia, no? In una nicchia protetta. Forse Edicola Fiore su Sky è il programma che più si avvicina per affrori, ricordi e rimandi al lavoro egregio, no? Che fece Arbore, non solo in Quelli della Notte, ma anche in Indietro Tutta, che furono due programmi epocali. Lì sai cosa cosa secondo me allontana lo spettatore o lo avvicina? La sensazione che non sia tutto di plastica, che non sia tutto artefatto, e che le persone che sono lì fisicamente in televisione non stiano recitando un copione, replicando un copione stantio, e che si divertano davvero, come si divertivano quei pazzi da Catalano a Andy Luott, Roberto D'Agostino, a tutte quelle persone che sono state lì in quel preciso momento e che hanno avuto la possibilità di esprimersi, cosa che sembra ovvia e pleonastica, che invece non è ovvia per niente, perché appunto quando hai il copione, no? Quando hai il copione in mano, quando mi diceva Antonello Falco, una volta lo andai a trovare, oggi questo signore meraviglioso che ha 88 anni, che ha segnato la storia del varietà italiano con Mille Luci e con tantissimo Studio 1 e con tantissimi altri programmi, mi diceva: ma oggi questi autori TV con quale faccia si fanno chiamare autori, no? Nel senso che è una bella domanda. È una bella domanda. Se tu vai nella RAI degli anni 60, gli autori erano sicuramente delle persone molto preparate, che non avrebbero mai preso da internet un decalogo come... Ma mai. Malcolm, l'ultima cosa, in RAI ci sono molte donne al vertice, a cominciare dalla Presidente Maggioni, ci sono molte conduttrici, non è bizzarro che questo caso sia... esploso proprio un servizio pubblico che vede le donne in posizioni chiave, determinanti? Ma sai, è bizzarro anche vedere come poi nei confronti della Perego, che non credo affatto né odi le donne né abbia una posizione ostile alle donne, ci si sia scagliati in particolare per rivendicare l'importanza del genere femminile, che è una cosa un po' enorme rispetto, alla slide di un programma contro una donna, no? Anche questo mi ha fatto pensare, cioè l'idea che ci fosse una virulenza maggiore proprio perché si trattava di una donna. Magari sono solo elucubrazioni, però è un elemento che getto sul tavolo della discussione. Bene, grazie Malcolm Pagani, grazie Maria per essere stato con noi a Nessuno è Perfetta. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo, lo sapete, è il momento della Sunday Girl. benvenuta, buona domenica alla scrittrice Silvia Ballestra. Buongiorno. Autrice prolifica, l'ultimo romanzo è Vicini alla Terra, storie di animali e di uomini che non li dimenticano quando tutto trema. Ed è un omaggio commosso e coraggioso alle storie di veterinari, di volontari che negli ultimi mesi del 2016 si sono dedicati al salvataggio di animali smarriti e bisognosi dopo che il terremoto li aveva ovviamente lasciati senza cura, senza protezione. E Silvia Ballestra, noi oggi però l'abbiamo voluta come nostra Sunday Girl, nessuna perfetta, per un'altra ragione, perché lei è stata tra le prime persone a twittare subito dopo la messa in onda del programma di Paola Perego, Parliamone Sabato, ed ha twittato fuori i nomi degli autori, domani tutti a casa, la Perego per prima. Cos'è che ha scatenato il suo tweet? Dunque, io ho avuto notizia della messa in onda di quella trasmissione, devo dire, da tweet di uomini, giusto per mettere le cose in chiaro, per far capire che comunque non è, diciamo, un'indignazione femminile o solo da parte delle donne. Quindi le prime notizie mi sono arrivate da tweet di giornalisti altrettanto scandalizzati e indignati, poi sui contenuti appunto di quell'infografica ormai famosa con sì. I motivi per cui sposare le donne dell'est. E quindi quella è stata la prima cosa che ho visto, poi mi sono messa a cercare in rete la puntata e ho visto anche il resto, insomma, della discussione che si è generata attorno a quel delirante decalogo. Quindi è stata la reazione dettata dal decalogo o la sorpresa che il servizio pubblico dedicasse una parte di una puntata a un tema insomma davvero così un po' bizzarro, no? Ma le dunque, donne dell'est meglio degli sì. Sì. Allora, in realtà il tema poi è un tema, come dire, che esiste perché sì. Ci sono queste situazioni, certo. No, però andrebbero discusse in ben altro modo, quindi diciamo scandalo, l'indignazione nasceva anche dal modo in cui è stato trattato quel tema, in una maniera ibrida, ambigua, non si capiva bene se fosse una cosa satirica, in realtà poi si è scoperto che proveniva da una cosa satirica ma completamente distorta e ritradotta, quindi in un linguaggio che appariva quasi serio, no? Quasi come serio, un dibattito sì. In studio, quindi senza tutti quei segnali che dovrebbero comunque far capire anche a chi guarda, a chi ascolta, che si sta, come dicono loro, come si sono difesi loro, cazzeggiando. Quindi mancavano tutto un contesto e un lavoro che pure ci vuole, anche quando si cazzeggia, anche quando si fa ironia. Poi parliamo anche degli oggetti, no? Su cui si può ridere, su cui si può fare satira. Secondo me una cosa così sessista e razzista non è una cosa da prendere così alla leggera e su cui ridere. Lei è stata spesso molto critica nei confronti dell'editoria che definisce monnezzone. Quanto influisce, secondo lei, la TV degli ultimi 20 anni, quanto ha influito la TV degli ultimi 20 anni e i modelli proposti sulla formazione anche degli italiani? C'è una specie di vasi comunicanti tra TV e poi quello che finisce magari anche in libreria e quello che finisce per essere poi letto e comprato? No, in realtà la mia definizione di monnezzone applicata all'editoria riguardava i thriller e la letteratura più di intrattenimento più leggera, ed era anche una definizione, se vogliamo, affettuosa, perché io poi quei libri lì li leggo e mi piacciono pure e appunto non mi dispiacciono. Quanto invece al trash televisivo, anche insomma a tutto l'immaginario prodotto dalla televisione sulle donne negli ultimi a sto punto pure 30 anni, perché 10 anni fa parlavamo dei 20 anni prima, se ne sono aggiunti anche altri 10. Mi sembra totalmente distante e farlocco e artificiale, no? Rispetto alla realtà che potrebbe essere raccontata in altri 10.000 modi, la realtà che riguarda le donne. Allora la cosa che mi indigna un po' è che a livello appunto televisivo, che è un linguaggio molto forte, che in Italia insomma permea sempre tutto, e la dimostrazione del putiferio che si è scatenato attorno a questo argomento insomma è sotto gli occhi di tutti, io vedo solo un po' di beffe sulle donne. E siccome le donne in questo paese non sono proprio in una posizione ottimale, perché se andiamo a guardare, direi che è una cosa abbastanza globale, perché c'è chi ci ha fatto una campagna elettorale sopra l'attacco alle donne perché la competitor era una donna, no? Sì, assolutamente. Negli Stati Uniti è andata così. Sì, però qui infatti stiamo discutendo però del servizio pubblico, quindi in qualche modo gli editori comunque della RAI siamo noi cittadini, certo, che paghiamo il canone. Poi invece se i canali privati vogliono agire in un altro modo, facciano pure, nel senso, io non vado a protestare per la D'Urso, perché la D'Urso, vabbè, se non ti piace cambi canale eccetera. La RAI invece la paghiamo noi, quindi forse un po' di voce in capitolo ce l'abbiamo, e quindi comunque ben vengano per esempio nuovi spazi come i social network, dove comunque è possibile manifestare una critica, un dissenso, e chiedere anche che alcune cose vengano corrette. In questo caso è stato fatto. Di solito quando si attacca una presa di posizione così evidentemente diciamo triviale, la replica è: beh, vabbè, ma questo, allora che cosa volete? Volete una TV moralista? Sì, sì, è come quando ti dicono su, fatti una risata, no? Di fronte a tante offese, offese alle donne, offese al lavoro, offese all'intelligenza. Ma noi le risate ce le facciamo spesso e volentieri, figuriamoci, io anche nella mia scrittura affronto registri comici e leggeri, quindi non è quello il problema. Come dicevo prima, ci sono comunque degli ambiti che non possono essere messi alla berlina in discussione. Qui questi qua sono stati capaci di fare il capolavoro di offendere donne dell'est e dell'ovest, uomini dell'est e dell'ovest, mettere in campo stereotipi razzisti, sessisti, appunto, come è sotto gli occhi di tutti. Questo non è in discussione, no? Mi sembra che nessuno possa difendere quella roba lì. Sì, bisognerebbe capire appunto come sia stato possibile pensare che fosse una chiave divertente. Probabilmente a casa le persone, non so il tipo di pubblico che avesse la trasmissione della Perego, ma probabilmente a casa, diciamo, il lato ironico che si voleva forse far arrivare non è arrivato. E, Silvia Ballestra, in conclusione, meglio gli uomini o meglio gli animali? A giudicare dall'ultimo suo libro, Vicini alla Terra, come dicevo, pubblicata da Giunti, quasi quasi meglio gli animali. Ma io non farei una gerarchia o delle preferenze, come spesso pure molti fanno. No, il mio è la volontà di raccontare un territorio colpito appunto dal terremoto, un territorio che si conosce anche poco fuori, e attraverso proprio i suoi abitanti, anche gli ultimi dei suoi abitanti, che sono gli animali che caratterizzano moltissimo quelle zone, quindi affrontare anche questo racconto parlando degli animali anche domestici, cioè di case che non ci sono più, di famiglie che sono state allontanate dai loro paesi. E di veterinari che hanno fatto comunque il loro dovere. Sì, hanno fatto il loro dovere in forma volontaria, poi ci tengo a sottolinearlo, dedicando grande tempo, forze, energie, insomma sono stati sul campo e hanno lavorato moltissimo, aiutando sia gli animali che le persone, poi che a quegli animali vogliono bene. Certo, è un punto di vista, questo sì, molto incoraggiante. Io ringrazio la nostra Sunday Girl, Silvia Ballestra, e... Le do appuntamento a una prossima puntata di Nessuno è Perfetta. Vedremo che cosa raccontare della nostra attualità. Buona Grazie. Domenica. Arrivederci, ciao ciao. Buona domenica. Nessuna è perfetta. Eccoci sempre qui, sempre con Nessuna è perfetta e la voce cavernosa della Latella di questa domenica. Stiamo parlando del caso televisivo e non solo della settimana, e a parlarne sono due esperti: il giornalista e titolare di una rubrica sul messaggero.it, la rubrica televisioni, Marco Castoro. Buona domenica, Marco. Buona domenica pure a voi tutti. E Monica Lanfranco, giornalista per Il Fatto Quotidiano, che si occupa dei temi di differenza di genere ed è scrittrice, appena uscito il suo ultimo libro, Parole Madri, ritratti di femministe, narrazioni e visione sul materno. Buona domenica, Monica Lanfranco. Buona domenica anche a voi e chi ci ascolta. Dunque, tra le osservazioni che sono puntualmente arrivate dopo la chiusura della trasmissione di Paola Perego, c'è stata anche una riflessione sul fatto che la Rete 1 da anni, non certo da ora, propone dei modelli di ruolo femminile, delle trasmissioni e delle cose che col servizio pubblico c'entrano davvero poco. Sono state citate per esempio da Aldo Grasso le liti chiaramente costruite a tavolino, quindi non particolarmente autentiche, che ci sono per esempio in programmi come Ballando sotto le stelle. C'è una ricerca di audience, che poi non si capisce bene se questa audience sia legata a questo tipo di programmazione, una ricerca di audience che col servizio pubblico c'entra poco. È così? Lo chiedo a Marco Castoro e poi a Monica Lanfranco. Ma io ti dico la verità, a parte che la tua voce, permettimi la battuta, mi ricorda quella della Perego nell'ultima puntata, quindi occhio alla voce, voi conduttrici, perché qui è dura, se no, a parte gli scherzi ovviamente, però io non sono, obiettivamente non sono d'accordo su questo, a prescindere dalle liti costruite, quello che vuoi, perché Ballando con l'Alba Parietti, che crea sicuramente, fa parlare i giornali, fa parlare tutti, e quindi il pubblico la guarda, che litiga con la giuria, però comunque lei dice vuole rispetto dalla giuria, a prescindere che è costruito, sarà quello che vuoi, infatti rimane sempre in gara fino alla fine. Però in questo caso io vedo la trasmissione della, forse non vorrei, mi è sembrato un provvedimento troppo severo questa chiusura così in fretta sull'onda della bufera scatenata poi dal web. Come sappiamo bene, il web, insomma, molte persone nemmeno si documentano prima di commentare una cosa, e quindi sparano tanto per il gusto di avere una pistola in mano e sparano su chi capita. Io ti dico la verità, io ho rivisto il programma prima di scrivere qualcosa, al contrario della Maggioni, che ha fatto le scuse, non aveva letto nemmeno, non aveva visto nemmeno il programma, e devo dire, tutto questo scandalo, cioè, sì, per carità, ci sono stati due episodi tremendi, perché l'infografica è veramente vergognosa, ed è, visto che è stata presa da internet, sicuramente è stato un errore clamoroso di chi ha gestito la trasmissione, con le bufale poi che girano sulla rete, e le dichiarazioni di Fabio Testi veramente brutte, e lì andavano incalzate ma duramente dalla Perego, che secondo me ha preso la trasmissione e soprattutto questa fase come un gioco. Questo è l'errore che ha fatto, cioè era una cosa così tranquilla e invece si è scatenata una bufera, e proprio per questo lei paga le conseguenze. Però obiettivamente ne ho visto di peggio, ecco, in televisione. È proprio questo il punto, che sul servizio pubblico vederne di peggio, Monica Lanfranco, non è molto confortante, primo perché paghiamo noi il canone, e secondo perché il servizio pubblico dovrebbe attenersi non tanto a delle regole così, diciamo, antiche o di qualche decennio fa, ma sicuramente a una, diciamo, una correttezza, una comunicazione molto diversa da quello che può fare audience su una TV commerciale. Personalmente poi penso che le liti finte alle quali ci costringono come telespettatori da decenni alcuni conduttori TV sono stucchevoli e hanno stufato. Comunque, Monica Lanfranco, qual è il punto di vista? Quindi Marco Castauro dice è stata una presa di posizione eccessiva quella di chiudere il programma. Tu che ne pensi? Tornerei alla locuzione bufera, la bufera scatenata sulla trasmissione. Io parlerei di un'altra bufera, c'è una bufera in atto da una venticinquina di anni, ma non contro le femministe, proprio contro il femminile e il maschile, perché gli stereotipi che la televisione e i social vomitano tutti i giorni, e in particolare in televisione appunto da quando l'avvento delle private ha modificato tristemente anche la RAI, è pericolosa. Vorrei citare il lavoro di Lorella Zanardo. Sì, certo. È un lavoro datato, ti chiediamo 2009. Di allontanarti un po' dal mare, perché abbiamo l'onda. Allora, nel 2009 Lorella Zanardo fece un lavoro di grande pregio, perché riassunse in 25 minuti 25 anni di genuflessioni femminili e di appunto facciamoci una risata che da ridere proprio non c'era niente. Ecco, questa roba sta continuando e di certo sgomenta che sia quel servizio pubblico a veicolarla, ma vorrei dire che sgomenta tout court. Certo. Il fatto di pagare un canone aggrava la situazione. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di non solo scarsa professionalità, ma soprattutto di arroganza. Permettetemi di dire che in generale quando ci sono cose di questo tipo nelle aziende se ne vanno tutti all'estero. In Italia non solo restano quasi tutti lì, ma il dibattito appunto è, come dire, impoverito dal fatto di non allargare lo sguardo. Esatto, ed è proprio pensando al telespettatore medio. I ragazzi non guardano ormai, non guardano più molto la TV, però sono sui social e i social hanno molto ripreso il tema di Parliamone Sabato. Marco Castauro, oggi proprio, cioè nei giorni scorsi, proprio sul Messaggero, sul tuo giornale, l'amministratore delegato, il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, scrive spiegando qual è stata la genesi del provvedimento di chiusura della trasmissione condotta da Paola Perego e annuncia un cambio di rotta. Quindi teoricamente ora ci aspettiamo che anche le finte liti della Barietti, le finte liti, le scene con i conduttori che se ne vanno, tutto questo teatrino un po' triste al quale da anni siamo sottoposti noi telespettatori, finirà. Tu pensi che finirà? Guarda, intanto sulle donne è importante dire una cosa, perché possiamo dire quello che ci pare, i discorsi, tutto quanto, però comunque la RAI ha la maggior parte delle conduttrici donne che occupano dei ruoli importantissimi, anche c'è un direttore di rete che è donna, cioè voglio dire, non vedo tutto questo così nei confronti delle donne, questa differenza, cioè sì, magari ecco, ci sono dei casi ecco strani, però devo dire la donna in Rai è considerata tantissimo, poi anche nelle trasmissioni, poi sono loro stesse che le conducono, che addirittura fanno il capo autore, perché la Isoardi, la Daniele, la stessa Perego facevano i capi autori, quindi comunque oltre a presentarla la trasmissione la gestiscono pure, e tantissime persone, diciamo nei manager ci sono donne, quindi alla Bignardi direttrice di Rete 3, la Dallatana direttrice di Rai 2. Beh, però dire, per l'appunto la presidente della Rai, Monica Maggioni, si è scusata per la trasmissione, quindi si deduce che non condividesse quel genere di rappresentazione della donna. Però perdonami, tu ti scusi e non hai visto la trasmissione, sei il presidente Rai, ho capito. Allora, per rispondere, tanto per mettere le mani avanti subito, il direttore di Rete si scusa immediatamente, ok, quando c'è stata poco tempo fa Giovani e Ricchi, che era una trasmissione su Rai 2 che praticamente ha fatto avvelenare ancora di più la rete, perché tutti quanti hanno scritto, perché c'erano questi figli di papà che stavano dalla mattina alla sera sullo yacht, in giro, non sapeva niente. Anche quello non era proprio servizio pubblico, diciamo. Attenzione, però lì c'è stata la Dallasana, il direttore appunto di Rai 2, che ha detto: ragazzi, anche questo è servizio pubblico, perché servizio pubblico è raccontare anche l'Italia, è raccontare il costume di quello che avviene in Italia. Quindi se ci sono i poveri, ci sono anche i ricchi, e noi abbiamo raccontato questo. Cioè, non è che si è scusata, ha difeso, e nessuno ha fatto nulla, la trasmissione è rimasta e è andata avanti. Cioè, però è finita lì, non mi pare che sia stata riproposta. No, hanno fatto la puntata successiva e faranno probabilmente un ciclo nuovo. Però era comunque due puntate che servivano a far vedere questa gente come vive. Ma cioè, uno spaccato d'Italia. Cioè, se qui il servizio pubblico deve essere soltanto l'ABCD, e torniamo veramente, non lo so, un minimo di costume, l'Italia sta cambiando, cioè bisogna pure uscire da certi l'Italia sta cambiando, ma riproporre l'immagine di una donna casalinga perfetta non mi pare proprio un grande segno quello, di cambiamento. Infatti quel cartello, come abbiamo detto prima, quel cartello è vergognoso, perché quei comandamenti lì sono vergognosi. Però collegare, per esempio, ogni minima cosa al femminicidio, cioè chi fa la violenza è un criminale, lo puoi fare alla donna, lo puoi fare all'uomo, al bambino, all'animale, sei un criminale se ammazzi una persona o se fai qualcosa. Cioè, quindi riportare tutto sempre e soltanto in una direzione, secondo me, sembra eccessivo. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Nessuna è perfetta. Bentornati, questa è l'ultima parte di Nessuna è perfetta. Monica Lanfranco, come possiamo immaginare un cambio di passo della RAI? E soprattutto, pensi che ci sarà? No. Io penso che il problema qui sia che quando si parla di donne, c'è sempre qualcosa o di più importante oppure si minimizza. Se la trasmissione, le trasmissioni fossero su argomenti di veramente qualunque altro tipo, ma anche cose importanti, razzismo, oppure prendere un gruppo sociale e cominciare a dividerlo, a dileggiarlo, perché lì questo si è fatto. Da una parte ci sono le madonne e dall'altra parte ci sono le puttane, no? Il femminismo diceva né puttane né madonne, finalmente solo donne, siamo lontanissime da essere solo donne. E c'è questo benaltrismo per cui da una parte sì, in cartello insomma non va tanto bene, Fabio Testi che parla dei suoi tour puttanieri, sì, forse quello non era il caso, ma qua noi stiamo parlando di una sistematico dileggio di metà più uno della popolazione, perché è di questo che si sta parlando. Si dice: ah, ma questo è bacchettonismo, ma cosa volete, una TV politically correct? Sono laureata in filosofia e trovo che il moralismo sia una corrente di pensiero come altre molto interessante, quindi non solo non accetto che mi si dica in quanto moralista che sono antica, ma non accetto l'ignoranza di chi lo dice, e l'ignoranza la fa da padrone. Ribadisco, nel momento in cui il servizio pubblico, ma non solo servizio pubblico, mette in scena spettacoli che vorrebbero essere di divertimento e di intrattenimento di questa natura, non abbiamo capito che cosa fa ridere, ma abbiamo molto ben capito che cos'è l'insulto. L'insulto a milioni di donne e uomini intelligenti che credo trovano intollerabile che ci si diverta così, perché è di questo che stiamo parlando. A prescindere da quella trasmissione, sono decenni che va in scena questo tipo di spettacolo. Io non mi diverto, non accetto che mi si dica che i miei figli e le mie figlie, i ragazzi e le ragazze italiane possano divertirsi. Allora poi non c'è da stupirsi, io vado molto nelle scuole, che dentro le scuole le due parole chiave che sento dire siano frocio e troia, perché è di questo che stiamo parlando, non dappertutto, ma molto diffusamente. E sento anche ragazzi e ragazze che dicono che in fondo un cerchio suppone, se lei ha guardato un altro ci sta, perché questo è l'amore. Ah, ecco. Perché è di questo che stiamo parlando, dell'educazione delle giovani generazioni. Queste cose sono dei mattoncini piccoli ma frequentissimi che costruiscono un muro di ignoranza e di violenza nei confronti delle donne in particolare, e costruiscono una situazione di malessere e di pericolo. Io la vedo così. Senti, Marco Acquastoro, in chiusura, tra tutte le reazioni che ci sono state, quale consideri più significativa? E c'è stato un punto di vista dissonante tra Paola Perego e i vertici RAI, perché Paola Perego ha detto che ipocrisia, adesso si scusano ma avevano approvato i temi della trasmissione. I vertici replicano: no, non è vero. Chi ha ragione, la Perego o i vertici RAI? Allora, guarda, secondo me il fatto che la Perego dica che il capostruttura e il direttore abbiano avallato la scaletta è comunque non la assolve completamente, perché a prescindere che la RAI ha smentito categoricamente che il direttore Fabiano abbia visto la scaletta, però il capostruttura e il capoprogetto l'hanno vista sicuro. Ma la scaletta, possiamo imputare alla scaletta la tabella e l'infografica e diciamo gli argomenti, ma la diretta, che è il caso di Fabio Testi, che come abbiamo detto prima ha esagerato nella maniera vergognosa, e quello lì è la diretta, sta al conduttore, alla conduttrice cercare di prendere le distanze. Esatto, sì. E prendere le distanze, addirittura anzi attaccarlo, ricontrobatterlo, e dicendo che dice cose vergognose. E lì purtroppo la Perego non l'ha fatto, perché è sembrata quasi che era una cosa leggera. Lei l'ha presentato pure come un argomento leggero, questo, se uno rivede la trasmissione. Perciò alla fine è stato un ciclone, altro che una cosa leggera. Però evidentemente poi la scaletta è una cosa, la diretta è un'altra. E lì purtroppo c'ha tutte le sue colpe e le sue responsabilità. Comunque tra coloro che l'hanno difesa, devo dire anche Costanzo ha fatto un'intervista abbastanza, cioè sembrata esagerata con lui. Molti nel mondo della televisione hanno comunque visto eccessiva la cosa, perché se facciamo un esempio al famoso porta a porta col figlio di Totò Riina, ci fu una puntata seguente con le vittime della mafia, e quindi potevano anche organizzare la possibilità di fare una puntata opposta, totalmente diversa, tutta dall'altra parte, ed era forse una soluzione migliore. Però in questo momento serviva a chiudere quel programma. Serviva perché faceva comodo, prima perché c'erano anche gli ascolti bassi, poi si dava uno schiaffo a Lucio Presta, che comunque è uno che conta molto in Rai. Ora si può vedere il daytime e cambiare i programmi e cambiare gli organici, perché qualche testa sicuramente salterà. Bene, io ringrazio Marco Castoro, vedremo se le sue previsioni si realizzeranno. Ringrazio Monica Lanfranco. Noi ci vediamo, ci sentiamo anzi, come sempre domenica prossima, spero con una voce meno cavernosa.